Vorrei un amore che sia tutto per me. Io sogno la felicità che un giorno verrà. Mamma. Mamma. Dove sei? Fa freddo qui. È autunno ormai e il freddo è arrivato all'improvviso. Ieri correvo lungo il fiume in magliette e pantaloncini e oggi un vento gelido mi costringe a coprirmi. E sono anche un po' triste. Lo so che ti può sembrare strano che mi metta a scriverti, ma come dicevi tu, alla fine maturano anche le zucche. Sì, Alan. Alla fine maturano anche le zucche. E così adesso ti metti a scrivere. Tu che non hai mai letto le mie lettere, che le buttavi. È vero. Ma non lo facevo per disinteresse o perché non ti volessi bene, mamma. Lo facevo perché avevo fiducia nelle tue capacità e nella tua forza. Le buttavo dicendo tanto starà bene, ne sono sempre stato convinto. Lo so, può sembrare orribile, ma tu hai sempre capito i miei lati non proprio normali. Starai sorridendo ora pensandoci. Dico, ai miei lati non proprio normali. Tipo quando leggo la tazzina del tè al termosifone con un lucchetto e una catena robusta perché ho paura che qualcuno me la rubi quando io non ci sono. Ah, guarda che non c'è niente di strano. Sapessi quante cose rubano nelle università e nei college? In America, ancora più che da noi. E te le rubano così, con quel modo di fare che hanno loro. Passa uno e dice, ehi tu, prestami la tazzina che mi faccio un goccio. Prestami la tazzina, un goccio. Mi vengono i brividi anche adesso a pensarci. Altro che chiusa con un lucchetto. L'avrei messa in cassaforte se avessi potuto la mia tazzina per il tè. Lo so, sorridi pure, mamma. Sorridi. Come quella volta che mi hai chiesto di imbucarti la lettera per Babbo Natale. Te lo ricordi? Avevi 22 anni. Eri appena tornato da Cambridge. Da noi c'era la zia. Ti ricordi la faccia che fece? La smorfia bianca di cipria, rossa di vergogna. E la voce? Che fa? Gioca il nostro professorino? Gioca! Io non gioco affatto, forse gioco sempre. E poi non sono un professorino, per questo non so dire se Babbo Natale esiste o no. E tu, zia, puoi dimostrare in base ad espressioni algebriche perfette che Dio veglia sopra di te ed è fatta tua immagine e somiglianza? Tu hai idee così chiare del tuo Dio da essere sicura che adesso, proprio adesso, il tuo Dio tra me e te sceglierebbe te da portare in salvo con lui in paradiso? Ma non dissi niente di tutto questo. Stavo imparando a tacere in quel periodo. Ma a me hai continuato a parlare di Babbo Natale. Mi hai detto che quell'anno per Natale avresti voluto un bell'orso di peluche. Non di quelli duri, con il muso duro, il pelo ruvido, le articolazioni rigide. e lo sguardo fisso in un vuoto che sa di mummia. No, mamma, quell'anno a Natale volevo un orso morbido, di quelli che di solito indossano un bavaglino bianco con una scritta gialla. Sono il re delle macchie e hanno un muso che non puoi non parlarci. Stanno lì, ti ascoltano, giocano con te, ti consigliano. Insomma, come si fa a non capire quanto fosse importante per me e con quanta forza io desiderassi un orso di peluche? E infatti, quell'anno, Babbo Natale te ne portò uno bellissimo. Lo avevi chiamato John. John! È stato con me tutta la vita. L'ho perso in queste ultime settimane. Non so come sia stato possibile. Non so tante cose di queste ultime settimane, mamma. Non lo so quante, non lo so davvero. Scusami, ma mi devo coricare. Solo qualche minuto. A presto. Siamo esseri malvagi che vagano, disperati e affamati su questa terra senza speranza. Il meglio a cui possiamo aspirare è navigare poco sotto la linea della cattiveria. Io penso che le sole cose che dovremmo rivivere sono le cose belle, mamma. Quelle che ci scaldano un pochino dentro dal freddo che fa là fuori. Dove ci sono loro. Notte, mamma. Sogna, Alan. Sogna sempre. I sogni sono figli della fantasia, come le parole sono figlie dei pensieri. Tu, Alan, hai preso da me. Anch'io ho sempre sognato. Pensa, poco fa è venuto a trovarmi il tuo orso. Sorrideva. Mi ha detto che stai bene, che sei dimagrito, che non mi devo preoccupare. Caro Alan, lo ritroverai, il tuo orso. Lo ritroveremo. Vedrai. Metti il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno. Fatti bella per stregarla e per sempre addormentarla. Mamma, ricordi che sin da piccolo avevo in testa quello che avrei fatto da grande? O meglio, avevo in testa i numeri. I numeri e l'amore. Sarà stato il secondo semestre della prima liceo, o forse l'estate dopo. Sento come se fosse adesso. Il profumo del nostro giardino mi arrivava dalla finestra della mia camera. In quei giorni ho capito qual era la mia strada, né giusta né sbagliata. Amavo i numeri. Studiavo matematica. Amavo gli uomini. Cercavo gli uomini. Non riesco a trovare altre parole. I numeri e l'amore. Semplice. Come respirare. E la natura, il mondo va così. E adesso che mi hanno spento tutti i desideri, io non ho rimpianti. Se non fossi imprigionato dentro questo corpo, che non è più il mio, mi rimetterei le mie vecchie cose da corsa e mi butterei nel prato oltre la ferrovia per spegnere tutto il rumore del mondo e sentire solo quello del mio cuore. Ma la corsa non è più per me. Non adesso almeno. Ti ricordi quanto mi piaceva correre? Sì, Alan, me lo ricordo. Quanto eri bravo. Sono venuta anche a vederti qualche volta. Arrivavi sfinito, pelle e ossa, eppure avevi muscoli forti, le spalle che ti aveva dato il canottaggio, la velocità breve e continua imparata con il tennis. Un atleta. Sì, mamma, un atleta. Come lo immaginavano i filosofi veri, non quelli di oggi. Se mi vedessi adesso, mamma, ti metteresti a piangere. Sono un vecchio, grasso. Ho persino una specie di seno cadente da balia. Non posso più guardarmi allo specchio. Io non sono quella cosa che c'è riflessa lì. Non posso più chiedergli: specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Mi direbbe: ma sei cieco, e avrebbe ragione. Anche i capelli se ne stanno andando. Prendo chili e perdo capelli. E la testa in mezzo a non capirci più niente. Quando fai fatica a capire te stesso, è impossibile guardare fuori. Metti il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno. Fatti bella per stregarla e per sempre addormentarla. Metti il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno. Fatti bella per stregarla e per sempre addormentarla. Metti il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno. Fatti bella. Mi sono tornate in mente le cose che pensavo quando ho iniziato a scoprire la morte. Per un ragazzo, per un bimbo è quasi un rito. Il passaggio all'età adulta strappato dal mondo delle favole. Corpo e spirito. In quel tempo e per molto tempo dopo ci ho ragionato a lungo su questa cosa. Corpo e spirito. Il corpo, in quanto forte presenza fisica, attiva, piena di energia, è in grado di attirare il proprio spirito a sé e di tenerlo stretto per tutta la vita, o quasi. Perché arriva un tempo, prima o poi, che il corpo non ha più le energie e le forze di prima. Come un pianeta che non sa tenere a sé i suoi satelliti. Lo spirito allora inizia ad allontanarsi, fa giri più lunghi, vola, come a vedere di trovare un altro corpo, un futuro. Il corpo si spegne e lo spirito si libera sempre di più. È un processo lentissimo. E i numeri qui si fermano. Ma va così. Mentre tu chiudi gli occhi per l'ultimo respiro, il tuo spirito se ne andrà lontano, portandosi chiuso nella sua immensa esperienza un vago sapere del corpo che è stato, e con questa traccia andrà in cerca del corpo che sarà. Metti il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno. Fatti bella per stregarla e per sempre addormentarla. Le macchine pensano, mamma! Le mie macchine pensano! Però non hanno uno spirito che le accompagna fino alla morte. Le macchine non sono uomini. Hanno dentro di sé lo schema logico della nostra testa, ma non hanno un cuore. E questo loro, i miei nemici, non l'hanno mai capito. Io so che le macchine diventeranno così piccole che quando loro le vedranno così minuscole e così veloci, capiranno che io non sono un pazzo, un pervertito innamorato delle macchine, Eppure qualcuno di loro scriveva che la mia passione per le macchine era insana, morbosa. Avrei voluto gridare loro che le macchine non sono proprio il mio tipo, ma loro non avrebbero capito. Io volevo solo fare. Loro volevano stare fermi. Alla fine è tutta qui la faccenda, semplice. Sono sempre troppo semplici le vicende degli uomini. Ecco perché abbiamo bisogno delle macchine per andare avanti. Potranno anche batterci, Alan. Potranno toglierci tutto, anche la memoria, cambiarci perfino la faccia, come hanno fatto con te. Ma il tuo cuore, quello no. Il tuo cuore resterà Alan. Mamma. Ricordi cosa ti scrissi una vita fa? Poco più che ragazzo. Ti ricordi cosa ti scrissi quando morì il mio amico Christopher? Ti scrissi queste parole. Sono da sempre dentro di me e ci resteranno per sempre. Ti scrissi: piango, ma non sono disperato. Sento, cara madre, che incontrerò di nuovo Christopher da qualche parte e che avremo del lavoro da fare assieme, come ne abbiamo avuto tanto da fare qui. Mi pare di non aver mai avuto altri amici oltre lui. Lui aveva la semplice capacità di far sembrare tutti gli altri terribilmente banali. È questo che lo rendeva speciale. E per questo sono sicuro che non è morto. È andato soltanto a fare qualcosa di importante da qualche altra parte. Ecco, ecco, cara mamma, è là che sento di voler andare ora. E ci devo andare subito, presto. Non c'è più tempo. Non ho più il mio tempo qui. Come quando aprivo un libro di calcolo e andavo a vedere in fondo alla lunga sequenza di numeri il risultato finale dell'operazione. Avevo fretta, come se fosse un romanzo da mangiarsi in una notte. Guardavo quel numero nell'ultima pagina, nell'ultima riga segnato con un quadratino in grassetto, e sorridevo felice. In quel momento sapevo che c'era qualcosa di giusto alla fine di tutto. C'era quel quadratino nero con il risultato al centro a darmi sicurezza, una sicurezza misteriosa, occulta, segreta. Vorrei un amore che sia tutto per me. Scusami, mamma, se non sono stato quello che volevi. Scusami. Io sogno la felicità che un giorno verrà. Ti devo chiedere scusa. Sei l'unica a cui devo chiederlo, l'unica che non me l'ha mai chiesto. Hai visto tutto? Hai capito tutto? Non ci sono maschere sociali che proteggono dall'amore vero. Per questo ti sono stato lontano così tanto tempo. Mi faceva paura sapere che tu sapevi. Hai sempre saputo quello che sono veramente, non hai mai detto una parola. Io adesso vado in cerca di Christopher. E tu sei l'unica che mi mancherà. L'unica a cui devo chiedere scusa. Io sogno la felicità che un giorno verrà. Forse ti meritavi un figlio migliore, diverso non è proprio la parola esatta da usare per parlare del figlio che ti saresti meritata, no. Che ti importa aver avuto un figlio genio, uno che ha aiutato l'Inghilterra a vincere la guerra? Questo non lo dico io, lo scrivono loro sulla medaglia che m'hanno dato. Un figlio che ha aperto la via per l'intelligenza artificiale. Che senso avrà per te se di tutto questo non resterà niente, cara mamma? Sai come la penso, non te l'ho mai detto, ma tu lo sai. Alan dice che le macchine pensano. Alan giace con gli uomini, quindi le macchine non pensano. È un sillogismo perfetto. Io ti ho solo amato, Alan, non ti ho mai giudicato. Loro la chiamano così, perversione. Loro mi hanno ridotto così. La mia laurea, i miei premi, i miei studi, i miei libri sono stati ben poca cosa. Io avevo tante parole con cui difendermi, ma ormai ho finito anche quelle insieme alle forze, le ho spese tutte. Avevo vinto una guerra, ero stato negli Stati Uniti ad insegnare, potevo anche dire io sono così, prendere o lasciare, l'eccentrico di turno è sempre piaciuto, potevo andare a lezione indossando la giacca del pigiama, potevo imparare a fare la maglia, potevo corteggiare una ragazza, pensare persino di sposarla, potevo giocare a tennis nudo con indosso solo l'impermeabile. La società sarebbe stata lì, in piedi, schierata ai bordi del campo, a darsi di gomito e dire guardatelo lì, il professore che si diverte, genio e sregolatezza. E invece il geniale professore non è solo un po' stravagante, non è solo una testa dura che insiste nel sognare un futuro inesistente per delle scatole di metallo. Mamma, il tuo geniale e leale figlio non è solo timido e ritroso, non è solo attratto dagli uomini. Tuo figlio, mamma, è un pervertito. Io ti ho solo amato, Alan, non ti ho mai giudicato. Il processo, i farmaci, l'arresto. Il processo, i farmaci, l'arresto. Io che dico sì, mamma. La cosa grave è che io ho detto sì, ma cos'altro potevo dire quando una verità è talmente banale che non riesci a dirla? Forse quella verità non esiste, forse hanno ragione loro. È stato allora che il mio corpo ha cominciato a perdere energie e il mio spirito ha cominciato a staccarsi da questo corpo che è mutilato, orrendamente mutilato, non è più il mio. La luce bianca inizia a filtrare dalle finestre e mi fa male tutto, mi tengo la pancia tra le mani e mi fa schifo, e l'immagine della mia sconfitta. Mamma, io ti chiedo solo una cosa, non lasciare che cancellino la mia vita. Le macchine pensano, anche se Alan giace con gli uomini. Io ti ho solo amato, Alan, non ti ho mai giudicato.